Sotto un cielo nero si estende un paese inabitabile, uno sconfinato deserto di crateri, di bombe, foreste pietrificate, letti prosciugati di fiumi esterminati, cimiteri di auto. In mezzo a questo deserto c'è una città senza uomini, una città piena di ombre e di nere, orbite di finestre, lo scheletro di una città. cuore, cuore il tonfo regolare di una gigantesca goccia d'acqua che cade in continuazione, forte e insistente.